I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. La Banca Centrale Americana, ieri sera, la mitica Federal Reserve, ha deciso di lasciare non solo i tassi invariati, quindi a livelli di minimo storico tra lo 0 e lo 0,25%, ma la sua presidente, Janet Yellen, ha anche aggiunto che per ora non c'è urgenza di rialzare questi tassi. La domanda è: perché la Banca Centrale Americana è così morbida, calma e attendista nel rialzare il costo del denaro, visto che l'economia americana è ampiamente uscita dalla crisi e ha un buon tasso di crescita, visto che il rischio che l'eccesso di liquidità a questo punto presente negli Stati Uniti generi una bolla speculativa è altrettanto presente? Perché quindi, per dirla tutta, la Federal Reserve aspetta prima di usare la principale arma per raffreddare un'economia che rischia di poter essere troppo surriscaldata? La risposta è parzialmente molto semplice, perché il lavoro gliel'ha già fatto la Banca Centrale Europea. Da quando infatti Mario Draghi ha annunciato che avrebbe avviato l'operazione di quantitative easing, ossia l'acquisto dei titoli di Stato da parte delle banche centrali europee, il dollaro si è bruscamente rafforzato nei confronti dell'euro e l'euro infatti viaggia intorno a quota 1,05 a livelli minimi dal 2003. Di conseguenza, se la Federal Reserve aumentasse a sua volta i tassi di interesse, il dollaro aumenterebbe ancora di più il suo valore e arriverebbe a un livello 0,96-0,95 con l'euro, che l'America non vuole, perché a quel punto le esportazioni americane avrebbero sì un grosso problema. E quindi, grazie a Mario Draghi, l'euro si è già deprezzato e il dollaro si è già rafforzato e la Banca Centrale Americana può aspettare ancora qualche mese prima di alzare i tassi di interesse. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. La Germania dei due volti. Eccola ancora a Berlino, la linea dura sulle riforme, sul risanamento dei debiti degli stati, ma anche il senso di responsabilità del non far naufragare l'Europa solo per difendere l'orgoglio tedesco e il dogma dell'equilibrio del bilancio. Siamo nuovamente alle prese con questi due volti. Questa sera si incontreranno i vertici della Grecia e appunto la Merkel, proprio per cercare una via d'uscita dalla crisi che ancora continua a pervadere Atene e pesare sui mercati finanziari europei e sugli stessi equilibri all'interno dell'Europa. Finora ci siamo lamentati di un attivismo tedesco, di un suo protagonismo quando si tratta di affrontare le grandi tematiche dell'Eurozona. Ora però ci rendiamo anche conto che proprio quell'attivismo non è il riflesso di una voglia di supremazia, ma soprattutto del vuoto politico che ancora circonda il futuro dell'Eurozona. Tutti si affidano alla Merkel. Riuscirà questa volta a trovare la quadra e così ad attivare quei finanziamenti che potrebbero salvare la Grecia? Tutti scommettono oggi di sì. Lo dicono i mercati, lo sperano anche i governanti, soprattutto di Italia, Portogallo e Spagna, che sono osservati speciali in questo momento. I nostri giudizi sulla Germania sono sbagliati? A volte sì, a volte no. Certo è, comunque, che sarebbe ora di una presa di coscienza in Europa su chi sono i ruoli e di chi deve avere la leadership nella gestione sia dell'economia che delle grandi sfide politiche. La Germania da sola certamente non può essere un'opzione, ma trattare con la Germania oggi è più opportuno che mai. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.